laddove alberga l'aurora ed ansie d'amore. Sono del sole, luci di levanti, dimora fra le mani d'anfitrite il mio cuore, chiusa a chiave in uno scrigno di diamanti. Diamanti, ladri e bugiardi, ne ho visti tanti davanti a me, ora vedo solo volti infranti, affogati da canti di sirene erranti, ora baciano l'oblio di labbra ghiaccianti. Se guardi il cielo c'è la luna, Diana, a guidarmi, non ho bisogno di una bussola per orientarmi. Seguo le stelle, loro sanno che vi indicarmi la strada verso Orione, non si impara sopra i banchi. Sono gli occhi stanchi di chi cerca una meta, le vinifere calambrose, la polita pietra. Dioniso mi versa d'oro la brocca intera, brindo in nome della mia dea anche stasera. Lo senti il vento, soffia verso l'infinito, sorregge le mie vele verso un punto indefinito. Non ho cuore, non c'è battito cardiaco, l'ho donato alla dea che m'ha concepito. Dalle sue labbra tutto nasce e muore, dal suo ventre tutto cresce in fiore. Dal suo seme tutto prende forma, anfitrite, via del mare dove tutto torna. Il sol celato ed imbrunito il mondo, raccolgo ciò che rimane e al mare mi volgo. E rosso vino che le vene in fiamma mi condurrà nel limbo senza ritorno. Ricordo il suo canto divino al tramonto, mi ha diviso come Giano dal doppio volto. Da quel giorno non divido il vero dal sogno, solco l'onda del destino sino ai lati del mondo. Quando mi ha baciato non ero pronto perché hai scelto me, ma lei non ha risposto. Dietro uno sguardo sai c'è nascosto molto, le parole sono cenere messe al confronto. Nel profondo, nelle vene ogni giorno sento un legame senza tempo che batte nel petto. Lascio che lei mi guide ovi gli achei, fianco ai remi nel mare, spume d'argento. Lo senti il vento, soffia verso l'infinito, sorregge le mie vele verso un punto indefinito. Non ho cuore, non c'è battito cardiaco, l'ho donato alla dea che m'ha concepito. Dalle sue labbra tutto nasce e muore, dal suo ventre tutto cresce in fiore. Dal suo seme tutto prende forma, anfitrite, via del mare dove tutto torna. Tutto torna, può esserne cosciente o meno, apri gli occhi.